GR24, il sole 24 ore. Berlusconi dalla Polverini nulla di immorale, l'ex premier rompe il silenzio e su Monti dice troppo condizionato dalla sinistra. Crisi, consumi mai così bassi da dopoguerra, crollano mutui e mercato della casa. Alcoa scontri tra manifestanti e polizia. Calcio stasera di nuovo campionato con Fiorentina-Juventus, una storia infinita di rivalità. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchi in apertura, ancora lo scandalo della Regione Lazio. Ci colleghiamo subito in diretta con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Renata Polverini, da apprezzare per essersi dimessa pur non avendo compiuto nulla di immorale o di illegittimo, lo dice l'ex premier Silvio Berlusconi all'Huffington Post in un momento difficilissimo per il PDL sull'orlo della scissione tra ex DN e ex di Forza Italia. In privato le parole del Cavaliere non sarebbero state così ottimiste, qui crolla tutto, avrebbe detto ai suoi, rischiamo per passare per il partito di ladri e del marcio e di finire sotto le macerie, vanno cacciati tutti. E questa mattina a Roma sono apparsi i cartelli con la foto di Renata Polverini e la frase questa gente la manda a casa io, ora facciamo pulizia, e l'ex governatrice del Lazio avrebbe anche promesso di dire tutto. La Polverini riceve il plauso di Pier Ferdinando Casini, l'UDC lo ricordiamo governava con il PDL in regione ma aveva già fatto sapere che avrebbe tolto l'appoggio, per Casini comunque Polverini non aveva alcun obbligo di dimettersi ma ne ha fatto un obbligo di dignità, mentre il presidente della provincia Nicola Zingaretti PD lancia un allarme, siamo seduti su una polveriera, ora occorrono i comportamenti reali, i fatti e l'esempio concreto. Le dimissioni di Renata Polverini aprono anche giochi in vista del voto anticipato, le prime indiscrezioni riguardano il centro-sinistra, il candidato naturale per la corsa governatore sembra essere l'attuale segretario regionale del PD ed ex presidente della provincia di Roma Enrico Gasparra, ma a sorpresa potrebbe anche spuntare la candidatura dell'attuale ministro per l'integrazione Andrea Riccardi, sostenuto anche dall'UDC. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, e della Polverini ha parlato anche Silvio Berlusconi. Troppo ligio alla Merkel e troppo condizionato dalla sinistra. Un giudizio sferzante sul premier Monti, quello espresso da Berlusconi alla versione italiana dell'Huffington Post. Averlo sostenuto finora dimostra la nostra coerenza e lealtà, ma avremmo voluto più coraggio, dice il Cavaliere, ammettendo però che il professore era sulla carta il miglior premier in grado di fronteggiare l'emergenza che si era creata. Quanto al futuro, si dice disposto a sostenere con tutto il cuore anche un candidato che non si chiami Berlusconi. Anzi, aggiunge, non sarebbe un errore nemmeno candidare Monti tra i moderati, ma per essere candidato occorre innanzitutto volersi candidare. Poi ricorda che la prima proposta di un PDL al governo sarà quella di abolire l'IMU, e infine un affondo agli avversari Bersani, Casini, Sel e IDV, un'armata Brancaleone, mentre dice di non temere affatto Grillo e Grillini, non sarebbero proprio in grado di governare. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Ma quali sono gli sviluppi dell'inchiesta? Sentiamo. I margini di arrivo non sono ipotizzabili, ma restano sufficientemente ampi. Le indagini sono solo all'inizio. Parole del procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, che lasciano presagire che altro possa ancora emergere dal Lazio Gate. Scandali politici, ma non solo. Dei fatti che in questi giorni riempiono le pagine dei giornali, precisa il magistrato, le indagini dovranno chiarire quali sono di rilievo penale e quali no. Anche se Pignatone rivendica, il presupposto è che non esistono santuari inviolabili. Sotto esame c'è quel 1.100.000 euro che Fiorito è sospettato di aver sottratto illecitamente, una parte trasferita dai conti PDL ai suoi conti in Italia, un'altra finita all'estero, in Spagna. Solo dal 21 marzo al 2 luglio di quest'anno un fiume di denaro transitato attraverso 38 bonifici. Tra questi, diversi finiti all'incaricato di occuparsi delle due ville che Fiorito ha a Tenerife. L'altro punto è invece chi o meno sapeva in giunta e in consiglio e da quanto tempo. Da ieri i magistrati romani, il procuratore aggiunto Alberto Caperna e il sostituto Alberto Pioletti hanno in mano il rapporto sui controlli affidati al nucleo valutario, verifiche che procedono in parallelo con quelle avviate a Viterbo. Gli aumenti dei costi di bilancio hanno sempre avuto via libera. Fiorito, interrogato ieri, ripete: i soldi pagati sono quelli che risultano nei documenti originali. E dunque che qualcuno doveva conoscere. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il punto di Stefano Folli. La vicenda del Lazio è anche una drammatica metafora dell'impotenza della politica, al centro, in periferia, negli enti locali. È, lo abbiamo già detto, uno scandalo di sistema che coinvolge tutti e sancisce un generale fallimento. L'altra faccia dell'impossibilità di tagliare i costi della politica, di ridurre il numero dei parlamentari, eccetera. E quando Berlusconi fa sapere di voler cambiare tutto dopo il tracollo laziale, confessa solo l'impossibilità sua e di altri capi politici di fare ormai alcunché. I treni purtroppo sono tutti partiti e le occasioni tutte mancate in questi anni. Per rinnovare il sistema ci vogliono ormai nuovi protagonisti e tanta, tanta serietà. Occorrerà guardare alle istituzioni piuttosto che alle segreterie di partiti anchilosati. E ora parliamo di economia. Oggi sono usciti ancora dati preoccupanti sulla casa e sui mutui. Ci aggiorna su questo in diretta Sebastiano Barisoni, buongiorno. Sì, buongiorno a te Adriana e ai nostri ascoltatori. Sì, dati preoccupanti sul fronte complessivo dei consumi interni del paese. Da un lato, come tu anticipavi, i dati diffusi poco fa dall'Istat sul mercato della casa segnalano un vero e proprio crollo nel primo trimestre delle compravendite, non dei prezzi, ma del numero di compravendite, meno 17% rispetto ai primi tre mesi del 2011. Crollano nei primi tre mesi del 2012 anche i mutui, meno 50%, praticamente la metà, dimezzato il numero di mutui accesi, un po' per la difficoltà del mondo bancario, ma anche per minori richieste. Infine, il dato diffuso oggi dalla Confcommercio sui consumi è in linea con quello della settimana scorsa della Confindustria, ossia il calo dei consumi nel 2012 sarà il peggiore dal dopoguerra, dal 1946. Se a questo aggiungiamo che senza i rinnovi contrattuali, sempre l'Istat oggi fa sapere che vi sarebbe stato un calo delle retribuzioni nel 2012, il quadro è abbastanza chiaro, la domanda interna è ferma, anzi è in calo, e per ora non si vedono spiragli sui consumi. Quanto alla borsa, vi do un aggiornamento: meno 1,24% in questo momento Milano. Milano con Madrid è la peggiore, le altre borse perdono intorno allo 0,40 perché Standard & Poor's, l'agenzia di rating, ha lanciato un allarme dicendo che peggiora il ciclo economico sia in Italia che in Spagna, e quindi rivede in peggio le stime sulla recessione italiana e iberica. Grazie a Sebastiano Barisoni. I ministri del lavoro Elsa Fornero e dello sviluppo Corrado Passera incontreranno invece questa sera i sindacati per discutere del caso Fiat. Al microfono di Maurizio Melis resta fiducioso il sottosegretario De Vincenti. Tutti noi dobbiamo avere molto rispetto della parola che ognuno di noi dà. Il governo è abituato a prendere, per quanto lo riguarda, impegni che poi mantiene. Altrettanto pensiamo che facciano i nostri interlocutori e pensiamo anche che il nostro paese sia un paese in cui ha senso prendere gli impegni che la Fiat ha preso. Tioli. Si chiama Licia Mattioli ed è il nuovo leader dell'Unione Industriale di Torino. Sentiamola. Per la prima volta dopo 106 anni una donna al timone, appunto Katia Caramelli l'ha sentita, lei indica le sue priorità e la ricetta per uscire dalla crisi. Bisogna concentrarsi sull'export ovviamente, no? Perché noi dobbiamo assolutamente, come abbiamo visto, dare rilancio alle esportazioni e quindi alleggerire il carico fiscale delle aziende che esportano nei mercati extraeuropei con quote significative. Poi una cosa su cui noi insistiamo molto è il discorso delle relazioni sindacali, no? È uscito questo tema della relazione fortissima tra costo del lavoro e produttività. Per noi imprenditori questa è una cosa fondamentale, è necessario che si rinnovino i contratti nazionali togliendo le indicizzazioni automatiche e facendo una contrattazione più legata a risultati aziendali, che questo non vuol dire che non bisogna fare aumenti, bisogna semplicemente legarli ai risultati dell'azienda. Il presidente Squinzi ha detto si applichi il concetto di produttività anche al settore pubblico. Sì, è correttissimo questo, perché il paese può ripartire solo se le regole valgono per tutti, no? Come si esce dalla crisi? Bisogna vedere la crisi come un momento da superare, secondo me, e quindi non c'è una ricetta unica, bisogna tirarsi sulle maniche e cercare di, come dire, essere ancora più veloci nelle risposte, quindi andare ancora più all'estero. Io dico sempre che l'imprenditore che oggi è successo c'ha sempre la valigia in mano, no? E soprattutto salvare le aziende che abbiamo qua. Le aziende dobbiamo attrarre le aziende dall'estero, ma le aziende che sono presenti vanno aiutate in un momento difficile, perché quelle creano poi il futuro. Sarebbero 4 le persone ferite, 2 tra le forze dell'ordine e 2 tra i lavoratori dell'Alcoa, dopo momenti di tensione stamani all'ingresso dell'assessorato regionale del lavoro a Cagliari. A farne le spese anche la segretaria provinciale della UIL del Sulcis, Daniela Piras. Un agente ha riportato escoriazioni sull'avambraccio. E ora ripartiamo dagli esteri e parliamo dell'Assemblea dell'ONU. Per Mario Monti è la 4ª volta negli Stati Uniti da Presidente del Consiglio, ma la prima all'Assemblea Generale dell'ONU, dove parlerà domani. Oggi invece incontrerà il segretario generale Ban Ki-moon, il presidente dell'Assemblea Yeremich e sarà intervistato da CNN e PBS. Agenda piena, quindi, ma mai come quella del presidente iraniano Ahmadinejad, che come ogni anno a New York rilascia interviste a sprombattuto, seminando zizzania e malcontento. Al suo arrivo Ban Ki-moon lo aveva esortato ad evitare la retorica incendiaria, ma Ahmadinejad non si è risparmiato, né coi giornalisti né con i colleghi. A un dibattito all'ONU sullo Stato di diritto ha attaccato infatti il Consiglio di sicurezza, affermando che alcune nazioni con diritto di veto sono rimaste in silenzio riguardo alle testate nucleari di un falso regime, sottinteso Israele, mentre impediscono il progresso scientifico di altre nazioni, sottinteso il suo Iran. Parlando ai giornalisti, non ci è andato leggero nemmeno il presidente egiziano Morsi. Gli americani, ha detto, si sono comprati l'odio dei popoli della regione appoggiando per decenni i dittatori del mondo arabo. Insomma, se anche Obama parlerà all'Assemblea oggi, sa già bene che cosa dirà di lui il mondo arabo domani. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. La Norvegia ha esorcizzato la strage di Utøya compiuta un anno fa con l'elezione della prima ministro musulmana Adia Taik. Era ora. Così Re Harald V di Norvegia ha commentato la nomina di Hadia Tajik a ministro della cultura. 29 anni, pakistana e musulmana, Hadia, classe 1983, parla 5 lingue, ha una laurea o un master conseguiti in Norvegia e un altro in Inghilterra. Si affaccia in politica nel 2006, anche se il suo impegno civile inizia quando ha soli 16 anni, è eletta leader della sezione locale della Lega dei Giovani Lavoratori. La nomina di Tajik, che è la più giovane al governo nella storia norvegese, sa di apertura in un paese, quale appunto la Norvegia, ancora ferito dagli attentati di Utøya del 22 luglio 2011. Nel paese scandinavo ci sono 160.000 musulmani, su un totale di 5 milioni di abitanti. I fedeli di Allah rappresentano il 3,2% della popolazione. Non mancano i contrari. I militanti del Sian, gruppo di estrema destra, hanno protestato anche online con post denigratori e commenti razzisti. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il giorno dopo la frana alle Cinque Terre che ha ferito 4 turiste, mancano ancora i fondi per la messa in sicurezza di questo territorio. Ci aggiorna su questo Anna Marino, buongiorno. Buongiorno a te Adriana, buongiorno agli ascoltatori. Dopo il nuovo incidente di ieri nel territorio ligure delle Cinque Terre, la frana che si è abbattuta sulla Via dell'Amore, ferendo 4 turiste australiane, di cui 2 in maniera grave, si riapre la questione della messa in sicurezza del territorio. Intanto la Via dell'Amore è stata chiusa per ordine del sindaco di Rio Maggiore e sequestrata dalla procura spezzina, che procede per lesioni gravi colpose contro ignoti. Ma al di là dei fatti, si tratta di un territorio fragile, come dicevi, secondo gli esperti, ed è ancora aperta la questione dei fondi, come ci spiegheranno gli ospiti di Italia in Controluci, in onda tra poco alle 13.30 con Maria Piera Ceci. A tra poco. Grazie Anna Marina, ora parliamo di scuola, finalmente una buona notizia. Dopo le ultime limature, oggi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso bando del concorso con il quale verranno assunti 11.542 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, un evento in qualche modo storico visto che l'ultimo concorso si era tenuto nel lontano 1999. Si tratta di una grande opportunità, ha detto oggi il ministro dell'Istruzione Profumo, perché agli insegnanti, indipendentemente dalla loro posizione in graduatoria, si darà la possibilità di accelerare il loro percorso ed entrare in ruolo prima di altri. Dopo la pubblicazione del bando, i docenti avranno 30 giorni per presentare domanda. Le prove da superare sono 3. A dicembre ci sarà una preselezione nella quale i candidati dovranno affrontare dei quiz a risposta multipla. La seconda prova scritta a gennaio consisterà invece in una serie di quesiti a risposta aperta. Entro l'estate, infine, ci sarà la decisiva prova orale. Le prime 7.351 assunzioni arriveranno in tempo per l'anno scolastico 2013-2014, le altre invece per quello seguente. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In tempo di crisi l'educazione economica e finanziaria andrebbe insegnata a scuola all'interno dell'ora di cittadinanza e costituzione, la vecchia educazione civica. Ne è convinto il 96% dei docenti e l'83% dei genitori, secondo una ricerca realizzata dall'Università Cattolica di Milano in collaborazione con l'Associazione Patti Chiari. Al microfono di Clemente Lepore, Giovanna Boggio Robutti, responsabile dei programmi di educazione finanziaria di Patti Chiari. È una ricerca interessante che voleva indagare su quello che può essere il ruolo dell'educazione finanziaria per costruire una cultura di maggior benessere economico individuale. Senz'altro c'è stato veramente concordare pienamente su questa importanza di parlare di questo argomento non soltanto in famiglia, dove purtroppo si fa poco, ma anche a scuola. E quindi sia i genitori che gli insegnanti che gli stessi studenti hanno ritenuto molto utile inserire questa argomentazione dentro però alle tematiche più generali di cittadinanza e costituzione. Quindi l'educazione finanziaria viene in effetti associata alla cittadinanza economica e quindi a quello che noi usiamo definire un pezzettino del bagaglio culturale indispensabile del cittadino del domani. Era una notizia giunta poco fa. Due sospetti terroristi libici che si trovavano a Roma sono stati espulsi dall'Italia. I due libici di 26 e 28 anni rispettivamente sono sospettati di essere jihadisti, cioè legati alle formazioni armate di matrice salafita che operano in Libia. E ora in chiusura parliamo di calcio, lo facciamo come sempre con Carlo Genta. Buongiorno Carlo. Buongiorno Adriana, buongiorno a tutti, anche perché il primo turno infrasettimanale della stagione, quinta giornata che verrà aperta questa sera da un match subito ad alto voltaggio storicamente. Quello tra Juventus e Fiorentina si gioca a Firenze. È una sfida tra attacchi confermati, Quagliarella per la Juventus, Jovetic naturalmente la stella viola. C'è qualche preoccupazione di ordine pubblico, annunciati 1500 tifosi bianconeri che verranno scortati allo stadio. C'è ovviamente la speranza di una serata di ampia civiltà sportiva, nonostante il pregresso che risale ormai a molti anni fa. Questa è la partita che aprirà dunque la quinta giornata di campionato. Conte dovrebbe essere regolarmente in tribuna, perché si vede che la telepatia con Carrera, di cui si è parlato ieri, ancora non funziona perfettamente, e dunque questo è il quadro della partita di questa sera. Le altre gare saranno domani alle 20:45, da monitorare con attenzione Chievo-Inter, Milan-Cagliari, e poi c'è un interessante Napoli-Lazio, ma di tutto questo parleremo naturalmente domani. Oggi si apre con Fiorentina-Juventus alle 20:45, tra l'altro torna un arbitro di vecchia conoscenza juventina, torna ad arbitrare quello stesso fischietto del gol fantasma di Muntari. Quindi un tema in più su questa partita, ne parleremo naturalmente più tardi in Tutti Convocati. Adriana. Grazie a Carlo Genta ed è tutto per questo notiziario curato da Dario Ceccarelli. Un ringraziamento a regia Fabio Cantadori, un saluto da Adriana Fracchia. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola per la seconda edizione del GR Spettacoli. In apertura gli ascolti TV, inizio col botto per Striscia la notizia che stacca di 11 punti Affari tuoi, 25% a 14. Prime time vinto dalla seconda e ultima parte della miniserie Caruso, La voce dell'amore, col 20,76% su Rai 1. Battuta con il 18 su Canale 5, la fiction Squadra Antimafia 4. Il ritorno in TV di Raffaella Carrà dovrebbe essere sabato 12 gennaio. Lo scrive oggi TV Sorrisi e Canzoni. Anche Raffa cede al talent con Auditorium, che il direttore intrattenimento Rai Giancarlo Leone ha definito una sorta di università delle arti e dello spettacolo. Leone sarà giovedì uno dei protagonisti della prima conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2013. Tra le prime indiscrezioni, la probabile nomina di Mauro Pagani a direttore musicale. Ai telespettatori italiani, Honky Tonky Train Blues di Keith Emerson ricorda subito la sigla di Odeon, Tutto quanto fa spettacolo, leggendaria trasmissione Rai di metà anni 70. È scomparso a Roma il creatore Brando Giordani, a dare la notizia su Twitter il nipote, il giornalista del TG1 Leonardo Metalli. Restiamo in televisione questa volta per parlare di una delle più famose telegiornaliste italiane, Maria Cuffaro, anchorwoman del TG3, in libreria con Cajal, Le vite degli altri e la mia. Come giornalista soprattutto prendi tantissimo, perché rubi le storie, le emozioni delle persone che incontri. Per la prima volta mi sono resa conto di questo tanti anni fa a Mosca, che era appena crollato l'Unione Sovietica, c'erano questi bambini che dormivano per strada e noi per 2 settimane abbiamo raccontato la loro vita, quindi gliel'abbiamo anche stravolta, e questo diciamo è una sensazione brutta, perché ti senti un po' avvoltoio, e lì diciamo mi è rimasta questo quasi senso di colpa verso le persone che ti si aprono, ti danno di tutto e tu restituisci cosa? Diciamo forse qualche fotogramma, 2 minuti in un palinsesto, un sorriso, ed è poco. In chiusura la musica. Anche questa è vita, ritrovarsi in una rissa di sabato sera. A pochi giorni dall'uscita era già primo su iTunes, con l'album Siamo morti a 20 anni, Lorenzo Cilembrini, cioè il Cile, è considerato il golden boy della nuova leva cantautorale. Forse questa infanzia che abbiamo vissuto noi negli anni 80, molto agiata da un punto di vista proprio umano, io intendo, anche se poi magari era un castello di carte. Poi è stato, come dire, un contraltare di quello che è stato il nostro diventare grandi e percepire un disgregarsi di tante cose, cioè la precarietà, prima che a livello lavorativo, è stata una cosa che abbiamo dovuto constatare e immagazzinare a livello umano, e vorrei che questo album facesse trapelare un desiderio di rinascere, perché crisi, che è la parola comunque che a livello di etimologia è legata a scelta, ecco, ci faccia scegliere cose che ci permettono di rialzarsi. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.